Pegaso, mi estata data la missione di portare in groppa il lampo e il tuono. Solo per questo, o leali, compiere la volontà di un dio chiamato Zeus. Alcuni dicono che sono nato dal sangue di Medusa. Altri che sono foglio di Poseidone.